Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Hanno indignato tutto il mondo, laico e credente, le tre femmine che si sono messe in pose oscene di fronte a San Pietro e mimando atti sessuali con dei crocifissi, dicendo il Papa non deve fare politica. Dal punto di vista mediatico è stato un momento suggestivo, perché vedere lo sfondo della cupola di San Pietro, le tre russe assatanate, nude, i poliziotti italiani imbarazzatissimi che correvano lì e cercavano di coprirgli le tette con dei giornali. Però da un segno rispetto a quella che può essere una vulgata generale, rispetto all'atteggiamento della Chiesa, che in questo momento è molto sotto osservazione del mondo, rispetto all'amore e il sesso, che sono il terreno fondamentale in cui si compone ogni disputa. Io vi annunciai qualche giorno fa che avrei chiamato Ignazio Ingrao, il vaticanista di Panorama, che ha appena dato alle stampe e alle librerie proprio da questi giorni un suo libro, Amore e Sesso ai tempi di Papa Francesco, Le coppie, la famiglia, la Chiesa, edizioni PN, che è una straordinaria nella velocità con cui è stata composta, il rapporto alla profondità di nozioni, di pensiero, di informazioni, di approfondimenti che ci sono in questo libro. È un libro aggiornato a 15 giorni fa praticamente, e dice quello che è realmente accaduto in questa sorta di scontro al vertice, almeno come l'abbiamo letto attraverso la stampa, che molte volte su questo cerca sempre lo spunto per la notizia, il Sinodo Mondiale sulla Famiglia. Ignazio Ingrao, buongiorno. Buongiorno. Allora, abbiamo iniziato con le femmine, che è stato il richiamo più evidente al fatto che esista un problema in discussione. Le femmine sono indignati tutti, il papà, le sorelle di Renzi, le zie, i nipoti, le cugine, laici, dicendo andatelo a fare con il Corano. Le ragazzotte russe ormai vivono per questo show, in realtà però ci hanno richiamato sul fatto in maniera truculenta, feroce e dissacratore, che ancora amore e sesso sono veramente il vero terreno di scontro, sia all'interno della Chiesa, o perlomeno di dibattito, sia rispetto al mondo laico. E questa è un po' la sintesi del tuo libro? Beh, assolutamente sì, perché in questi 50 anni un po' tutto quello che è riguardata la morale sessuale, ma anche l'evoluzione delle famiglie, la questione anche omosessuale, è sempre rimasta sospesa, quasi irrisolta sotto certi punti di vista, nella dottrina della Chiesa, ma anche nella prassi poi pastorale, delle parrocchie, delle chiese locali. Papa Francesco ha aperto ha scoperchiato questa pentola e chiede che se ne discuta apertamente e liberamente. Questo non significa che possa preludere necessariamente a dei cambiamenti straordinari, ma certo è un punto di confronto come non c'era mai stato fino a questo momento. Ecco, l'idea dell'ultimo Sinodo Mondiale sulla Famiglia però è stata che l'essersi portato avanti di Papa Francesco rispetto a questi temi con una maggiore apertura, perlomeno con una maggiore disponibilità a non creare barriere, abbia creato una forte distanza con altre parti, appunto, di vescovi e cardinali, tanto che il Papa, con le ultime dichiarazioni sull'aborto, ha detto praticamente ai medici fate gli obiettori di coscienza, cosa che in realtà provoca qualche perplessità rispetto alle difficoltà che già ci sono in Italia per applicare una legge, abbia un po' ritirato i remi in barca, abbia detto sì, non crediate che perché abbia avuto una esteriore comunicazione nel segno dell'apertura che non sia legato fortemente alla dottrina della Chiesa. Sì, anche stamattina il Papa al colloquio della Congregazione per la Dottrina della Fede ribadisce che i bambini hanno diritto di crescere in una famiglia con un papà e una mamma, quindi ribadisce quella che è l'orientamento della Chiesa di sempre. Ma il punto non è questo, il punto è che negli ultimi decenni la Chiesa ha fatto finta che di niente rispetto al fatto che nella vita, nella prassi concreta delle famiglie, delle persone, la morale sessuale era ben diversa da quella, diciamo, i comportamenti sessuali erano ben diversi diversi, sono ben diversi da quelli che sono indicati dalla Chiesa, così come le famiglie sono profondamente cambiate. Allora il Papa, senza arretrare su quelli che sono i principi della dottrina, dice però non possiamo continuare a far finta di nulla, dobbiamo interrogarci, ascoltare e parlare con le realtà che cambiano. Questo è il punto di svolta. 800 24 00 24, mi piacerebbe sapere il punto di vista dei nostri ascoltatori, qualunque esso sia, dal punto di vista di un credente che viene richiamato in realtà all'attenzione globale rispetto ai suoi doveri di credente, non soltanto superficiale. Se sei credente devi seguire quello che è appunto il dettato della Chiesa, se no lo si è parzialmente. E se invece è il punto di vista di un laico, come vedono questo dibattito all'interno della Chiesa? Perché è importante, perché è un segno, perché in realtà non si può ignorare che il peso e la ricaduta che ha poi anche sul comportamento delle persone, quello che dice, non dice, o lascia credere, o lascia intendere, o dice chiaramente un Papa. 800 24 00 24. Cos'è il matrimonio? È una vera e propria vocazione, come lo sono il sacerdozio e la vita religiosa. Due cristiani che si sposano hanno riconosciuto nella loro storia di amore la chiamata del Signore, la vocazione a formare di due, maschio e femmina, una sola carne, una sola vita. Una coppia che vengono a sposarsi, ma voi sapete che il matrimonio è per tutta la vita? Ah, noi ci amiamo tanto, ma rimaneremo insieme mentre dure l'amore. Quando finisce, una da una parte e un altro dall'altra parte. È l'egoismo. Quando io non sento... Qua mi sembra molto chiaro, è inutile illudersi, prendersi in giro. Se vuoi essere un cristiano, vuoi seguire da buon cattolico quello che dice la Chiesa, devi partire con il piede giusto. Però questo non significa che, diciamo, quello è l'ideale, è il modello. Ciascuno però ha il suo percorso, il suo cammino, è la legge della gradualità che il Papa invita a considerare. Quindi... Però è ben chiaro, cioè, vorrei che tu cercassi, visto che l'hai fatto molto brillantemente in questo libro, di fugare ogni ambiguità, che ci sia una sorta di cambiamento, qualcosa cambia che improvvisamente... poi perché tu devi capire che le persone mediamente hanno una vulgata da giornali che in realtà toccano questo tema come uno dei tanti temi. Tu sei vaticanista, ma lo sei in un modo totalmente fuori da quella che è la prassi, il vaticanista che è la velina della sala stampa. Tu hai sempre avuto atteggiamenti molto personalizzati, anche molto critici, ma anche molto attenti. Ecco, per far capire esattamente qual è il punto, cosa è accaduto durante questo sinodo e dopo questo sinodo. E comunque sia, chi da fuori, da laico, si aspetta che improvvisamente ci siano cambiamenti, stravolgimenti, si è lasciato in qualche maniera un po' abbacinare dall'idea del Papa alla portata di tutti, che chiama al telefono chiunque, la linea è sempre quella. Ma certamente la linea è quella, però attenzione, il Papa ha chiesto confronto e discussione, di interrogarsi. Immediatamente qualcuno ha alzato un muro, anche strumentalmente, dicendo no, su questi temi non è il caso proprio di aprire neanche una discussione. E come composta sono la fazione? Per ma capire. Sono quelli che sono più legati, diciamo, quelli che sono più contrari alle riforme. A chi alcuni fanno capo? Lo sono anche dal punto di vista strumentale, perché hanno paura di perdere alcuni spazi di potere. A chi fa capo, diciamo, questa, non dico fonda, ma c'è un'ala, diciamo, anche all'interno del mondo americano statunitense, quello più legato al mondo pro-life e anti-aborto. Abbiamo visto il cardinale Burke, per esempio, ma anche nella Congregazione per la Dottrina della Fede, il prefetto, il cardinale Müller tedesco, c'è tutta quell'ala, diciamo, tedesca più legata alla dottrina, mentre però ce n'è un'altra che invece con il cardinale Kasper, con il cardinale Marx in Germania, cioè tutte figure che invece chiedono confronto con la società, ascolto e dialogo. E gli italiani come sono schierati rispetto a questo problema? Ma sono, diciamo, divisi, diciamo. Abbiamo visto il cardinale Ruini, per esempio, che non ha partecipato al sinodo, ma che con un'ampia intervista si è messo un po' alla testa di tutta quella opposizione rispetto al Papa e alle possibili aperture, ribadendo invece la fermezza sui cosiddetti valori non negoziabili, la vita, la libertà religiosa, la scuola cattolica e via dicendo. Ha detto, c'è invece, mi sembra, attraverso un'intervista sul Corriere della Sera. Assolutamente. E c'è invece chi ha, se segue il Papa e dice, come il Cardinale Baldisseri e altri, che dicono ma no, insomma, se, come è accaduto con il Concilio, usciamo dall'equivoco, c'è una dottrina che rimane quella, ma poi c'è la pastorale, cioè la prassi, il comportamento delle chiese che prende in considerazione la realtà delle persone. Se ormai tante famiglie sono divorziate, poi molti si sono risposati e chiedono comunque di essere coinvolti e presenti nella Chiesa, non si può tenerli, continuare a pretendere di tenerli fuori, perché si fa male a loro, ma si fa male anche alla Chiesa. Daniela, buongiorno. Buongiorno. Io telefono da Chiavari, volevo fare un'osservazione. Premetto in bocca al lupo e auguri per la poltiglia che sta calpestando. Infatti, siamo qui che guardiamo il cielo con ansia. Vabbè, a parte allora, questo, a Chiavari che succede? Allora, io volevo dire che ho avuto un'esperienza personale molto poco lineare, nel senso che io ho vissuto il 68, la liberazione sessuale, i comportamenti liberi che ho abbracciato in maniera... Beh, avrà un'ottantina d'anni ormai, se ne parla... 63. Vabbè, siamo quasi coetanei. Quindi, diciamo che mi sembravano giuste tante rivendicazioni. Cioè, gli ha dato sotto come poteva, nei tempi che poteva? Non esageratamente, perché ho avuto sempre una mia linea abbastanza equilibrata su certi argomenti, però diciamo ho avuto amiche che hanno abortito, che l'ho aiutate perché mi sembrava un grande aiuto, eccetera eccetera. Dopodiché io ho avuto un'educazione cattolica molto oppressiva e poi mi sono sposata, chiaramente non in chiesa, non ho battezzato i miei figli, quindi diciamo non sono sospettabile, ecco, sono una persona libera, mi ritengo. Ma mica è una colpa, No, nel senso che ho vissuto un atteggiamento in realtà, fortemente, quindi posso fare dei paragoni. Fortemente, diciamo, laico, ma laico nel senso di intransigente laico. Però sempre molta ricerca onesta, intellettualmente molto onesta. Dopodiché ho fatto un percorso di ricerca spirituale alternativa che non mi ha portato da nessuna parte, anzi direi che mi ha fatto... Cioè un gruppo buddista, inguagliato. New Age, cosa ha fatto? New Age, il supermercato della spiritualità. Certo. E adesso? Ma l'ho fatta con una serietà, sono andata alla ricerca delle mie vite passate, delle cose che potrei scrivere un romanzo. Cose che capitano. Dopodiché sono andata fortemente in crisi perché non approdavo. Adesso che dove è approdata adesso? Dove ho approdata? Voluto riscoprire la mia fede da un punto di vista più adulto. E quindi che ha fatto? Entrate in una comunità? Tutti gli assunti, diciamo, che mi erano stati imposti, li ho riscoperti come una grande verità, ma consapevolmente. Sì, ma dove è andata? Chi l'ha ripresa per mano come pecorella? Nessuno, diciamo che mi ha ripreso il cielo. Cielo, diciamo che è stato. Dio mi ha molto amato e mi ha messo sulla strada delle situazioni che mi hanno Vabbè, ma un rapporto diretto, sarà passata per una comunità, per un prete, per un gruppo di preghiera? No, poi ho fatto un cammino mio spirituale dentro un gruppo, sì, dentro la chiesa. Diciamo che li ho girati. Lo dice con titubanza, cioè ha fatto un vari giro e ha trovato la strada giusta. Quindi, dal suo punto di vista, rispetto all'attualità. Adesso che ho capito tante cose e le ho riscoperte, mi stupisce questo scandalizzarsi di un Papa che vuole avvicinare la gente ma non rinunciare a certe verità, cioè non c'è contraddizione in questo, quindi appena c'è un accenno di apertura, come dire, tutti, oh meno male, allora come dire, siamo a posto, questo non vuol dire, vuol dire porre la verità in una maniera più dialogante, più convincente. Daniela, lei capisce questo tipo di comprensione proprio perché ha fatto una vita intensa, ha provato varie esperienze, è approdata poi a una diciamo coesistenza con questi principi attraverso un lungo cammino, ma normalmente chi fa di queste aperture, queste immaginifiche interpretazioni sta al di fuori e guarda un mondo di credenti come se fosse qualcosa che non gli appartiene ma di cui vorrebbe assolutamente una sorta di laicizzazione. Io sono convinto che nel pieno rispetto della libertà di pensiero di ognuno, chi è credente debba esserlo fino in fondo se vuole esserlo, e se non lo è poi sono fatti dell'istituzione a cui lui riporta. A tra un istante, dopo il traffico. Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Credo che noi non abbiamo fatto ancora una profonda teologia della donna nella Chiesa. Soltanto, ma può far questo, può far quello, ma adesso fa la chierichetta, adesso legge la lettura, ma è la presidenta della Caritas, ma bisogna fare una profonda teologia certo, della donna. Adesso fa la chierichetta, già da una lettura diversa chi vuole essere malizioso, però questo era il punto di vista che aveva dato più apertura e più speranza per chi pensava che il Papa avesse improvvisamente messo in discussione la dottrina della Chiesa. Ma qualcosa è accaduto, qualcosa sta accadendo, come ci dice Ignazio Ingrao, che abbiamo in studio, autore di Amore e Sesso ai tempi di Papa Francesco, edizioni IPM. C'è un non detto su cui si discuterà molto da dopo questo sinodo. Ah, ricordo questo libro sarà presentato il 27 novembre alle 17 a Largo Torre Argentina a Roma, avrà una importante presentazione. Ignazio Ingrao, la vulgata giornalistica dà il Papa quasi un amministratore delegato sfiduciato, qualcuno ha detto adesso si dimetterà rispetto al sinodo, ma in questo libro fa capire che c'è un braccio di ferro forte soprattutto sui punti che sono rimasti abbastanza in sospeso nel sinodo, che da qui al prossimo sinodo daranno filo da torcere. Assolutamente sì, il Papa ha fatto un vero e proprio atto di forza, anche quei paragrafi del documento finale che non erano stati approvati dall'Assemblea, proprio relativi all'accesso ai sacramenti dei divorziati e risposati, al riconoscimento delle unioni di fatto e alla questione delle unioni gay, lui ha voluto che venissero resi pubblici e che di questo si discuta fino all'ottobre 2015, quando di nuovo riunirà vescovi e cardinali di tutto il mondo per prendere delle decisioni. Non dimentichiamo che Papa Francesco è un gesuita e quindi come tale lui è, come dire, aperto al dio delle sorprese, perciò non si chiude in schemi precostituiti, in pregiudizi, ma chiede massima apertura e libertà di confronto sulle questioni, senza arretrare, come abbiamo detto, sulla dottrina, ma cercando di lasciarsi interrogare dalla realtà che cambia. Questo braccio di ferro poi si ripercuote anche nella realtà delle conferenze episcopali nazionali, delle chiese nazionali, e quindi vediamo la Chiesa tedesca più portata e più lanciata verso questa apertura e questa discussione libera, e la Chiesa italiana invece un po' più restia o quantomeno un po' più timorosa rispetto alla discussione aperta su questi temi. Noi d'altronde alle spalle abbiamo 20 anni e più di gestione del Cardinale Ruini e quindi una linea molto chiara e netta che è ancora bello vitale, non è che ha tirato i remi in barca, non negoziabili, esatto. E quindi il tentativo forse da parte di qualcuno di mettere sotto al tappeto la discussione aperta dal sinodo e rinviare ancora, ma il Papa dice c'è uno scisma sommerso, i comportamenti delle persone sono molto diversi dalla morale che detta la Chiesa, lasciamoci interrogare da questo e cerchiamo di capire come portare le persone sulla linea e sulla dottrina. Quindi, rispetto che noi alla voce che girava di possibili dimissioni, visto che ormai danno per scontato che il Papa si possa dimettere tranquillamente, mi sembra che il Papa sia ben deciso a tenere la sua posizione e di gestire il suo ruolo, ma soprattutto a portare a termine questa discussione, perché poi si parla tanto dello IOR, dell'organizzazione della curia, ma è su questa partita che si gioca il pontificato di Papa Francesco, proprio sulle questioni dell'amore, del sesso, della morale, della famiglia. Maria Domenica, buongiorno. No, io ho sempre avuto questa sensazione che la Chiesa avesse un atteggiamento, la Chiesa nelle persone dei vari parroci, un atteggiamento morboso nei confronti del sesso, un pochino come la cosa proibita per cui andare a scavare in modo morboso. Però ora ho notato che se sì, in effetti alcuni parroci sono anche molto più aperti, anche questo parroco. Anche perché la maggior parte dei parroci vengono da paesi talmente lontani, in cui è talmente lontano il concetto di morbosità. Io vedo che sono nei paesini dell'Abruzzo parroci africani che le assicuro che rispetto a loro la morbosità non esiste, lo considerano una cosa normalissima. Sì, vabbè, ad ogni modo, quello che noto io è che la società oggi è molto più ridicola della Chiesa di ieri, perché effettivamente se la Chiesa aveva il sesso in fronte come quella barzelletta, ora è la società che non vede tutto in funzione del sesso. Ed è veramente ridicolo. Basta vedere le reclame alla televisione, la fanciullina che ripone il vibratore prima di uscire, l'altra che prima di... Lei ha delle letture molto particolari. Mi spiego la vista, la fanciullina che ripone il vibratore prima di uscire. Mi è sfuggito, la giuro. Che poi è stata tolta. Poi... di una moda, di sì, ma ci sono tante dei detersivi, di pedalini bucati. Poi di... no, poi cioè... c'è un'altra che per fermarsi a mangiare cornflakes, per l'appunto invece di fuggire dopo una toccata e fuga, si ferma perché per quelli. Insomma, sono veramente... Vabbè, lei ha fatto una bella selezione di pubblicità, continua a farla, la sua collezione sarà utilissima a noi per allontanare la morbosità. Enzo. Pronto? Sì. Sì, buongiorno, Enzo da Roma. E il mio punto di vista è che finalmente abbiamo alla guida della religione cattolica, della Chiesa cattolica, un Papa uomo, un Papa che sta affrontando queste tematiche importanti, che si sostituiscono ad una religione antica, limitata a delle scritture, ma traducibile e tradotta finalmente in una realtà comprensibile, una realtà attualizzata. Enzo, Ignazio, una battuta, è giusta la visione del signor Enzo? Sì, assolutamente sì, un papa che non ha paura della propria identità e quindi anche del confronto con chi la pensa diversamente. Ignazio Ingrò, Amore, Sesso e Tempi di Papa Francesco, edizioni PM, importante.